cosa che non serve e che serve solo a pubblicazioni. A Padova purtroppo fanno esperimenti di questo genere, sul giornale è uscito perfino, raggiunto il record di sopravvivenza in una scimmia in cui era stato inserito un cuore di maiale. Record di sopravvivenza, si trattava di poche settimane. Fanno gli esperimenti per ottenere un giorno in più di sopravvivenza con atroci sofferenze di questa povera scimmia? Questa è la logica. E adesso qualche appuntamento animalista a cui non si può mancare. A conclusione del ciclo di incontri sulla questione animale, l'Accademia Toscana di Scienze e Lettere, la Colombaria, propone una tavola rotonda condotta da Luigi Lombardi Vallauri, nella quale interverranno Lorenzo Guadagnucci, Mario Martini e Serena Ruffilli. Il titolo è «Verso un'umanità non violenta?». Per informazioni, via Sant'Egidio 23 a Firenze, telefono 055 29 19 23, segreteria@colombaria.it. L'ultima segnalazione, mercoledì 18 dicembre 2013 alle ore 20 alla Casa del Popolo di Settignano, solito apericena cruelty free e poi a seguire dibattito con Massimo Filippi sul libro Crimini in tempo di pace. L'appuntamento con Restiamo Animali nella sua versione extra large della domenica è per il 15 dicembre 2013, poco dopo le ore 12.